When a guy can play 36 holes and still have enough energy to take me and Warren to a ball game and eat hot dogs. I'm talking sausage hot dogs, beer. Not light beer, but beer. That's my ad. Print it up. Fatty who likes beer and golf. Jeez, Mary, where are you going to find a gem like that? Un inizio tutto italiano quello di questa terza parte di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdone. Abbiamo aperto con un nome nuovo per quanto riguarda Eclettica. Sto parlando dei Disharmony con un album Leila Saida che esce per la Lisa Records, un disco in cui le canzoni hanno solo tre titoli: o improvvisazione, o composizione, o impressione. seguite poi da un numero. I numeri, che sembrano messi a caso, poi sono i numeri che in pratica indicano l'ordine di creazione dei singoli pezzi, quindi avete perlomeno due modalità per ascoltarli, oltre a quelle che potete decidere a gusto vostro. Uno è l'ordine dei brani, esattamente perché sono, per come sono stati messi sul disco, e l'altro è l'ordine cronologico di creazione degli stessi, visto che questa informazione vi viene data in ogni titolo. Noi ci siamo ascoltati la traccia numero 5, che però aveva per titolo Improvvisazione 11. E poi dovreste aver riconosciuto i pugliesi Muzza con grande, veramente un grande disco loro, che cresce di ascolto in ascolto, In Case of Loss Please Return To, il brano che noi continuiamo ad ascoltarci, anche se ce ne sono altri belli, ma io poi alla fine scelgo sempre la traccia numero 6, aveva per titolo Oxygen, Opiates and Other Pale Ideas. Wow. Friend Opportunity è il titolo del nuovo album dei Dear Ho, uscito nel mese di gennaio, che noi ci stiamo ascoltando di tanto in tanto appunto dalla sua uscita. Uscita grazie alla Tom Lab Plus 81, il titolo del brano che vi siete ascoltati in Eclettica. Vi voglio ricordare, l'ho già fatto nella prima parte, l'ho fatto in mailing list, esiste anche uno spazio apposito all'interno del blog di MySpace. Comunque, il non DJ set, parafrasando Alice nel Paese delle Meraviglie, che si terrà nella città di Arezzo il 30 di questo mese, il 30 di marzo, dalle ore 21:30 in poi. In pratica, Eclettica portata nel mondo fisico, cioè il cercare di creare un'atmosfera con musica, dischi e libri all'interno di una libreria, appunto, cercando non di disturbare, ma di accompagnare il percorso che uno può fare all'interno di una libreria, da una copertina all'altra, da un libro all'altro. Lo scopo dovrebbe essere più o meno questo, vedremo come verrà. Questa vuole essere una sorta di puntata zero, così, per vedere come va, e ovviamente la si fa in un luogo amico. Vediamo di proseguire con la musica, ritornando sui Muriel. Era da una, forse due settimane che non tornavamo sulla band fiorentina con produzione artistica di Paolo Benvenu. Dal loro disco intitolato Il Movimento Necessario ci riascoltiamo il pezzo dal titolo Stagioni. Look, after you've had sex, with a girl and you're lying in bed with her, are you nervous? No. No, you're not. Why? Because I'm tired. Wrong. It's because you ain't got the baby batter in the brain anymore. Jesus, that stuff will fuck your head up. Oh, look. The most honest moment in a man's life are the few minutes after he's blown his load. Now, that is a medical fact. And the reason for it is that you're no longer trying to get laid. You're thinking like a girl. And girls love that. Holy shit. I've been going out with a loaded gun. People get hurt that way. Eclettica, fine della terza parte.